Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. E parto così con un brano che introduce la domanda che voglio farvi già dal primo mattino. A proposito di acqua, per l'appunto, ma voi bevete solo quando avete sete o bevete indipendentemente dallo stimolo che avvertite? E in media, quant'acqua bevete nel corso di una giornata? Intanto provate a pensarci, magari potrebbe anche essere utile quantificare i bicchieri, o se preferite possiamo andare a bottigliette, borraccette, ma forse potrebbe essere utile anche un altro dettaglio, e cioè valutare, capire se e in quale momento della giornata beviamo di più, ad esempio al mattino, dopo pranzo, ai pasti, verso sera. Insomma, tutte queste informazioni oggi sono utili, perché da queste partiremo per capire quanto e come bisogna idratarci. Il caldo si fa sentire e, puntuale come ogni anno, arriva la raccomandazione dei medici che ci avvertono: mi raccomando, bevete, idratatevi, mangiate frutta e verdura che aggiungono idratazione e quindi sono fondamentali. In linea con noi abbiamo naturalmente un medico che ci ricorderà, ma motiverà queste raccomandazioni, il dottor Gabriele Piuri, che è un medico esperto in nutrizione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, dottor Piuri, anche noi dobbiamo fare un po' un bilancio delle entrate e delle uscite. È importante capire quanto beviamo e quanto eliminiamo, perché l'acqua, lo sappiamo tutti, per noi è indispensabile, perché non esiste una parte di noi, del nostro organismo, che può farne a meno. Perché? Perché non c'è alcun sistema dell'intero organismo che non dipenda direttamente dall'acqua. Quindi da qui partiamo, dottor Piuri. Da qui partiamo, sì. In fin dei conti, le nostre cellule non sono troppo diverse dalle prime cellule che sono nate nel mare 1 milione di anni fa. Il problema è che le cellule, per funzionare, hanno bisogno di acqua. Noi fortunatamente abbiamo i nostri reni, che ci permettono di ricostruire il nostro piccolo male personale, ma per funzionare correttamente i reni hanno bisogno di un corretto apporto di acqua per riuscire a bilanciare tutti quanti i sali nell'organismo. Senza l'acqua i reni non funzionano, e se non funzionano i reni non riusciamo ad avere il male giusto e le nostre cellule non funzionano. Insomma, si potrebbe dire, senza timore di esagerare, dottor Piuri, che senza acqua non c'è vita. Insomma, l'acqua è indispensabile e... Paradossalmente si può stare senza mangiare, ma sì, senza bere no. Tutto diventa molto più complicato e ci si rimette subito sia in termini di funzione muscolare sia in termini di funzione cerebrale, intellettiva, proprio quando ci si sente un po' confusi. L'intestino funziona di meno, quindi tutto quanto dipende dall'acqua, perché sennò le nostre cellule non funzionano, non possono fare le reazioni che ci tengono in vita. Quindi ci vuole descrivere con parole molto semplici che cosa è capace di fare un semplice bicchiere d'acqua? Molti di noi si alzano e bevono subito un bicchiere d'acqua, si idratano appena svegli. Questa è una buona abitudine, dottor Piuri? Questa è proprio una buona abitudine, perché durante la notte il quantitativo di acqua che introduciamo è praticamente zero, quindi è abbastanza tipico svegliarsi la mattina con un po' di sete, perché siamo effettivamente un po' disidratati, soprattutto durante l'estate, in cui le temperature di notte tendono ad essere comunque alte. Un po' con la traspirazione, un po' col sudore, perdiamo tanti liquidi, solo che magari non beviamo da 8 ore. Certo. È fondamentale andare a reinserire subito la parte legata a un buon bicchiere d'acqua, ma anche due non guasta, in modo da reintegrare immediatamente quello che abbiamo perso durante la notte. Dottor Piuri, il fabbisogno di acqua, si legge, lo sentiamo dire, per una persona adulta è di circa 1,5-2 litri al giorno, ma naturalmente la quantità può variare anche in funzione, immagino, di numerosi fattori. Penso all'attività svolta, alla temperatura, al tipo di alimentazione. Come a dire che 1,5 litri al giorno è una misura che serve così un po' per orientarci. Un po' a spanne. A spanne, sì, a bicchieri, a gocce. La quantità di acqua che serve dipende un po' dal peso, più si pesa, più bisognerebbe bere di più. Le linee guida generali dicono che bisogna bere circa 30-35 ml di acqua per ogni chilo di peso corporeo che abbiamo. Questo vuol dire che una donna di 50 kg in inverno può bere tranquillamente un litro e mezzo di acqua, mentre magari in estate deve bere un pochino di più, un litro e 7, un litro e 8, mentre un uomo di 80 kg effettivamente deve berne molto di più, nel senso che possiamo arrivare a quantitativi decisamente più alti. Che potrebbe essere tranquillamente di 2,4 litri, anche 2,8 litri in estate quando si suda di più. Altri aspetti che influenzano la quantità di acqua che dobbiamo avere sono ad esempio la gravidanza, in cui i fabbisogni idrici aumentano, e ancora di più durante l'allattamento, in cui aumentano ulteriormente. Dottor Piuri, tutto va un po' personalizzato. Tutto va personalizzato, certo, ma dottor Piuri, in apertura dicevo che voi medici ogni anno, quando inizia l'estate e quindi c'è caldo, raccomandate a tutti noi di bere, di non aspettare di avere sete e quindi di giocare un pochino in anticipo. Ci sono però due categorie, e sono gli anziani e i bambini, che vanno in qualche modo aiutati a idratarsi correttamente. Perché? Perché i bambini e gli anziani sembrano non avere proprio lo stimolo della sete, e quindi possono, ecco, i bambini giocano e non bevono, gli anziani sentono poco lo stimolo. Indicazioni per questi due profili, dottor Piuri? L'idea per entrambi è proprio di riuscire ad avere un'abitudine nel bere, avere degli orari precisi nella giornata in cui si stimolano sia i bambini sia gli anziani a bere qualcosa in più. Per i bambini potrebbe essere la mattina appena svegli, poi a colazione, poi a metà del gioco, a metà mattina, poi prima di pranzo, poi durante il pranzo, mentre per gli anziani è importante cercare di abituarli a misurare un pochino quanto bevono durante la giornata, in modo da quantificare e potersi effettivamente regolare anche a seconda di quello che devono fare durante la loro quotidianità. E se la persona anziana ha qualche resistenza a bere, ci sono tante persone che dicono ma a me l'acqua non piace, mi sembra di non digerirla, ricordiamo che l'idratazione si può ottenere anche assumendo degli alimenti, dei prodotti che sono particolarmente ricchi d'acqua, ed estate non c'è che l'imbarazzo della scelta. La frutta da quel punto di vista in estate è buonissima, è ricchissima di acqua buona anche, nel senso che è un'acqua che è pulita, e quello ci può aiutare tantissimo. In generale anche tutte quelle che sono le verdure fresche, che in estate si consumano con molto più piacere, possono andare tutte quante bene, anche se poi il fatto di ricordarsi comunque l'importanza di un bicchiere d'acqua fa tanto la differenza. Molte persone sono un po' infastidite dal sapore dell'acqua, e a volte è sufficiente aromatizzarla con un pochino di succo di limone, oppure la parte legata a un infuso di menta per dargli un po' di sapore, in modo proprio di riuscire a ribilanciare, a far venire voglia di bere. Vale ancora quello che dicevano un po' le nostre nonne, se urini vuol dire che bevi la giusta quantità, e soprattutto anche il colore dell'urina ci può dire qualcosa sul livello della nostra idratazione? L'urina chiara vuol dire un segnale positivo, tutto a posto, hai assunto i liquidi necessari, vai! Se faccio pipì di frequente, se l'urina è chiara, va tutto quanto bene, perché il rene ha abbastanza acqua, mentre se in realtà il rene va in carenza di acqua, deve concentrare maggiormente l'urina, e per concentrarla questa diventa di un colore più forte, tende ad avere anche un odore più forte. Il fatto di riuscire ad avere sempre un'urina chiara può essere già un buon indicatore di quello che si sta facendo. La invito a ripercorrere con me una giornata e a segnalarci i momenti in cui un bicchiere d'acqua potrebbe fare la differenza in termini di benessere. Sicuramente al mattino, durante la notte non ci siamo idratati, iniziamo la mattina con un bicchiere d'acqua, ma può essere un tè, può essere anche il caffè, tutto quello che in qualche modo rappresenta il liquido. Metà mattina, dottor Piuri, il nostro cervello un po' inizia a dire, ahi, sono stanco. A friggere. Il, fatto di prendere, di bere a metà mattina spesso è anche utile per evitare la fame nervosa. A volte abbiamo sete e mangiamo perché non ci ricordiamo di bere. Il fatto di prendere, di bere qualcosa a metà mattina può essere effettivamente molto utile per riuscire a controllare un po' quella voglia di fare uno snack, di fare una pausa a metà mattina. Ora di pranzo, una fame da lupo potrebbe infatti nascondere in realtà una sete non riconosciuta. Un bicchiere d'acqua è un ottimo spegnifame, in questo modo aiuta anche le persone che stanno un po' controllando la loro dieta. Sì, quello è molto molto utile, il fatto di, soprattutto quando si è a dieta, di mantenere una buona idratazione è probabilmente uno dei consigli più utili per riuscire a capire effettivamente quando si ha fame, quando la fame è vera, o al contrario quando invece è una fame finta, che non deve essere assecondata. L'altro aspetto importante quando si mangia è cercare di prendere, di bere prima del pasto e non in maniera troppo abbondante durante il pasto, perché questo soprattutto nei soggetti un po' più sensibili rallenta la digestione, e rallentando la digestione poi proprio perché si beve tanto e si diluiscono gli enzimi digestivi, quello potrebbe costituire un altro problema. Quindi, tanto per complicare la situazione, è meglio cercare di bere un po' più lontano dai pasti. Sì. Quello l'acqua viene assorbita meglio, fa meglio e non dà fastidio alla digestione. E comunque a piccoli sorsi. Dottor Piuri, grazie, la saluto, le offrirei un bicchiere d'acqua, ma faccia finta che... Buona giornata, buona giornata. C'è Carmelo Lauricelli in regia con noi alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi do appuntamento come sempre dopo il GR delle 12, perché ci sono le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata.